noi saremo sempre più là. Da Marco Roma, buongiorno! Ultimamente sì, ultimamente è un po' strano lui, perché è stato lasciato dalla ragazza. E c'è stato un momento in cui lui era contentissimo, diceva buongiorno amore, sei dolcissima, eccetera. Poi per 2 o 3 giorni è stato incazzato come una iena, e invece adesso non sei, adesso appunto confonde l'estate con l'inverno, per cui non so bene com'è la faccenda, ma non mi sembra positivissima. Comunque Marco Roma continua pure a mandarci vocali, e anzi grazie per quello che fai. Allora Silvia, che cosa perché sei qua? Sono qua primo perché sono un'ammiratrice di Stefano Wash Pasquini. Questa è la prima ragione, ma da molti anni, come tu sai. Come io so, qualche decennio. Sì. E poi perché inaugurano 2 mostre tra poco, alla fine di gennaio, che ho curato, a cui tengo molto, perché sono 2 mostre che io amo molto, di cui amo sia gli artisti che le opere che verranno esposte. Fra l'altro io non conoscevo nulla di Greta Schödel. Greta Schödel, dopo poi parlo di Aldo Mondino, certo, anche, ma Greta Schödel è un personaggio assolutamente straordinario. Vive a Bologna da 70 anni, quasi, cioè 60, cavoli, ma quasi pochissimi la conoscono. Ha fatto anche mostre, ha fatto biennali, cioè è un artista che ha lavorato per lungo tempo. Adesso credo che non so se li ha compiuti o li deve, ma no, credo che li abbia compiuti 93 anni. È vispissima. È una persona straordinaria, con una vitalità e una voglia di testimoniare la presenza nel mondo, nella vita, veramente rara e invidiabile. Ce l'avrei anch'io, ma insomma comunque gliela vedo. Certo. E, che lei è austriaca. Si è diplomata all'Accademia di Vienna, dove ha avuto anche il premio, si chiama una roba okay, il premio per la migliore, di aver capito, ecco, la miglior allieva dell'anno. Era nei primi anni 50, cioè nell'immediato dopoguerra, e all'Accademia di Vienna ha imparato e poi ha praticato nella sua arte, nella sua vita, una quantità di tecniche, dalla tessitura al mosaico, l'affresco, la pittura, l'incisione, tutto. Lei ha imparato di tutto e ha messo a servizio queste sue competenze tecniche della sua desiderio e volontà di fare arte. Lei è arrivata a Bologna perché incontrò Dino Gavina, che è stato un genio, un straordinario personaggio, per la città, ecco, certo, un grande personaggio, e ha avuto due figlie con Dino. Ah, dai, non lo sapevo. E poi loro sono rimasti, si sono, non so se separati, comunque ognuno poi a un certo punto, dopo anni, ha fatto la propria vita. E Greta, che quando è venuta via da Vienna mi ha fatto vedere dei lavori incredibili, non so, dei mosaici di 8 metri, affreschi, anche in luoghi, ha fatto mostre alla Kunsthalle di Vienna, cioè era un'artista molto ben quotata e conosciuta, una giovane artista ben conosciuta a Vienna. Poi è arrivata qui in Italia e naturalmente nessuno se l'è calcolata. Capisco benissimo. Ecco di che cosa stiamo parlando. Esatto, ed è anche se è un artista scusate, figurati, un artista veramente non solo di grande qualità, ma anche di una grande poesia. Lei usa, come la sua è un'arte di segni, lei usa la scrittura come decorazione nel senso alto della parola. Sì. in quello che era, lei viene dalla scuola di Klimt, dalla scuola di artisti importanti austriaci, quindi viene da una scuola dove la parola decorazione non è come da noi considerata diminutiva, certo. Ma invece è come era in quegli anni. Matisse è stato un artista, un grande decoratore, questo, certo, non gli toglie assolutamente nulla, non toglie nulla alla sua grandezza. E Greta lavora soprattutto sul segno, sulla scrittura. Lei scrive in gotico quasi sempre, sulla scrittura come impronta digitale, come segno di identità. Ognuno ha una scrittura che è propria, che è sua, ed è come è come lo specchio della propria identità, al di là della grafologia, di cui non me ne intendo. E quindi fa questi lavori molto belli su marmo, con una scritta dove scrive marmo dappertutto in piccolino, e ogni tanto con qualche goccia d'oro o qualche parola scritta in oro, e sono delle cose di una straordinaria poesia. E anche concettualmente, lei è stata, infatti, quando ha esposto alla Biennale, ha esposto insieme al gruppo della poesia visiva, stata invitata da un artista importante, si chiama Mirella Bentivoglio, certo, che è stata appunto una delle più importanti artiste della poesia visiva. Ma rispetto alla poesia visiva, che è più concettuale, che gioca più sulla parola astratta, invece Greta prende spunto nella sua arte da tutto ciò che la circonda, e soprattutto dalle sue sensazioni e dei suoi sentimenti. Usa i materiali per questa sua scrittura, usa come supporto i materiali più diversi, ma che provengono anche casualmente però dal suo vissuto. Non so, c'è un bellissimo lenzuolo che era il lenzuolo di sua nonna, le federe del suo corredo, o la carta, o il marmo. Quindi e con questi segni, che però sono segni emotivi, segni emozionali, non sono non sono concettuali e chiusi in se stessi. Poi con questo uso del gotico, che è anche un modo, le lettere sono molto belle, sono tutte un po' di gorgolaccio, ed è un artista che lavora da 70 anni sulle foglie, ad esempio. Fa delle cose bellissime scrivendo sulle foglie, perché lei è vissuta in campagna e suo padre era veterinario, e quindi lei ha una grande passione per la natura. E insomma, la sua opera, secondo me, dovrebbe piacere moltissimo ai giovani, perché ha un rapporto col mondo e con le cose diretto, quindi non mutuato. È sicuramente un'artista colta, ha partecipato alle settimane della performance negli anni 70, facendo una performance in cui portava in giro un tubo, un grandissimo tubo tutto scritto, un bidone che in Piazza Maggiore, questo bidone con tutte le scritte in oro, con tutta la gente che cercava di leggere. Cioè è molto coinvolgente, ed è un artista, come spesso sono gli artisti, difficili da raccontare, perché se no avrebbero scritto, certo. Non lo so come dire. Invece il fatto che usino l'immagine, però l'immagine, il segno, per lei il segno è quello che dall'emotività al cervello, alla mano, si tramuta in una sorta di messaggio di vita. E quindi è un artista molto affascinante, e consiglio a tutti, perché poi le sue opere sembrano come degli spartiti musicali, sembrano, hanno risonanze. A questo proposito ti interrompo per ascoltare un pezzo musicale. La mostra si chiama Il segno traccia del nostro vissuto, e inaugura l'Abs Contemporary Art il 20 via Santo Stefano 38, Via Santo Stefano 38, il 28 gennaio. Il 28 gennaio. Anche se già aperta dal 27. Bella sta cosa, sì, che uno può andarla a vedere prima dell'inaugurazione. Sì. Ma durante Art City succede, sì, questo, ecco, questo è altro, come ben sappiamo. Sì. Invece è uscito da poco, la settimana scorsa, un nuovo singolo di questo gruppo che si chiama La Chiamata di Emergenza. Me l'hanno spedito e dunque ve lo faccio ascoltare. Si intitola Mi Perdo. Mi perdo, perdo, perdo, perdo, perdo, mi perdo, perdo, perdo nelle piccole cose che non so più ascoltare, non so più spiegare, ma vorrei morire dentro di te. Piccoli particolari, fare finta di conoscere a memoria il mio copione non mi servirà per dimostrare che vali in questa gabbia di squali. Vivere come mendicanti in una Lamborghini, essere sempre appeso a un filo e non sentirsi più vicini, per raccontarsi la vita, godere di ogni cosa. Mi perdo, perdo, perdo, perdo, perdo, mi perdo, perdo, perdo nelle piccole cose che non so più ascoltare, non so più spiegare, ma vorrei morire dentro di te, che mi costringe a dubitare di me stesso, cuore d'acciaio, muscolo denso, quel silenzio che non c'è, perché sarebbe inutile. E non cercare una risposta a tutto questo, fammi respirare ancora un po' di sesso. Resta accanto a me, che un po' di C non guasta mai, per farti ridere un po'. Dammi un modo per restare dentro di te. Ed eccoci qua, ci siamo persi, no, ci siamo ritrovati. E oltre a Greta Schödel, inauguri una mostra importantissima, cioè alla Fondazione Palazzo Boncompagni, Aldo Mondino, Impertinenza Palazzo. Ah, questa è una mostra che amo molto. Immagino. Ho amato moltissimo Aldo Mondino. Anzi, infatti ti volevo fare questa domanda. Facciamo finta che io non sappia chi sia Aldo Mondino. Raccontamelo, da brava ex professoressa di storia dell'arte contemporanea. In pensione. Quale eri? Sì, esatto, in pensionata. Aldo Mondino è un personaggio assolutamente atipico della scena artistica degli anni fine anni 50, dagli anni della fine degli anni 50 e primi anni 60 in poi. È torinese e è un personaggio assolutamente originale, un dandy, era sempre vestito elegante, era bello da vedere, era sempre vestito elegante, ma dandy, nel senso che aveva sempre un gilet tipo Eton, quelli della Fred and Perry, che allora era quelli da tennis bianchi e blu, queste cose, era sempre vestito in modo che pantaloni rossi, era un dandy ed era eterno bambino con grande intelligenza. Aldo Mondino comincia a lavorare quando Torino comincia a fare l'artista. Intanto cito questa cosa deliziosa per dire chi è Aldo Mondino e il suo spirito, da una intervista che gli fece Maurizio Cattelan anni addietro. E che, sarà ripubblicata nel catalogo, in cui Maurizio Cattelan dice: guarda, io come prima domanda chiedo sempre come ti sei, quando è che hai pensato di fare l'artista, quando è che hai sentito che volevi fare l'artista. E Aldo risponde così, dice: guarda, è stato dopo che avevo finito i militari, una mattina mi sono svegliato e avevo da me davanti due strade. Una era alzarmi, vestirmi e andare in azienda da mio padre. La seconda era rimanere a letto. Scelsi la seconda strada e feci l'artista. Esatto. Quindi questo te la dice lunga sull'aspetto dissacratorio, umoristico e... Certo. Il gioco sottile dell'intelligenza e di un umorismo sempre, sempre attivo. E come dicevano a Modena, al fa l'artista. Al fa l'artista, ecco. Esatto. Infatti lui la gioca. La gioca in quel modo. E lui in quegli anni a Torino è di grandissima vivacità. Sì. Lui era molto amico di Alighiero Boetti, certo. Era amico degli artisti dell'arte povera. Ma mentre in quegli anni, a metà degli anni 60, tutto era dominato, lo scenario dell'arte era dominato dall'arte concettuale e sembrava quasi un delitto usare le mani e dipingere o scolpire o fare un'opera che assomigliasse a quelle del passato. Certo. Mondino dipingeva, mm-hmm. Quindi era già controcorrente, ma non in modo, come dire, voluto. Era controcorrente perché lui faceva quello che si sentiva e quello che gli piaceva. Soprattutto si divertiva, ma si divertiva sia con l'arte che con i giochi di parole, con i calembour. Faceva le sue opere, sono quasi dei rebus. I titoli hanno sempre, lì si vedrà in mostra, io ho scelto e fatto il titolo Impertinenze a Palazzo, gioca proprio su questa particolare caratteristica. Poi lui ha avuto moltissime, ha perseguito moltissime vie, ma mentre nasceva e si espandeva e dominava la pop art prima e l'arte povera poi, lui si è sempre mosso in modo totalmente autonomo, cosa che, come noi sappiamo, non dà un grande aiuto da un punto di vista della fama, certo. E della notorietà. Adesso Mondino è un artista molto conosciuto, chiaro. Ha fatto mostre in America, ha fatto mostre in tutto il mondo. Poi a un certo punto, alla fine degli anni 50, è andato a Parigi, perché Parigi non è, la gente andava a New York e lui, Parigi non era più la capitale, certo. Dell'arte, era New York, e cioè lui è andato a quella che era a Parigi, okay. E a Parigi ha seguito l'École du Louvre, dei corsi di storia dell'arte corsi di pittura, e poi ha seguito un corso di mosaico tenuto da Gino Severini, che appunto abitava a Parigi. Wow. E noi vedremo che cosa ne ha fatto di questi corsi, di queste competenze, perché le ha usate nel modo più impertinente, nel modo, certo. meno t'aspetti possibile. Tornato da Parigi, ha girato, ha abitato in vari posti, ha abitato in Liguria, ha abitato a Roma, poi è stato a New York per lungo tempo, ha fatto mostre importanti a New York con Gian Enzo Sperone, mm-hmm. Che è una galleria importante, certo. Quindi ha avuto, e poi a Torino lavorava con la galleria più importante di Torino in quegli anni, ma anche una delle più importanti che si sia stati in Italia, riconosciuta conosciuta e riconosciuta in tutto il mondo, che era la galleria di Christian Stein, sì. Dove appunto hanno lavorato tutti, non solo gli artisti dell'arte povera, da Paolini a Merz a Pistoletto, ma dove hanno lavorato anche, cioè ha fatto mostre degli artisti più importanti, insomma, che ci sono, ed è stato una luce internazionale, galleriste newyorkesi di grande importanza come Barbara, adesso non mi viene il nome perché sono un po' mi viene Barbara Streisand, ma non è Barbara Streisand, cioè, è Barbara Bloom. No, neanche. È più vecchia di Barbara Bloom. Vabbè. Okay. L'hanno presa come esempio perché allora di donne galleriste ce n'erano poche. C'era stata Barbara Gladstone. Ci ho messo un pochino anch'io. Barbara Gladstone. C'era stata Peggy Guggenheim, ma certo. Insomma erano poche le donne. Sì. E Betty Parsons, che aveva fatto la prima mostra di Andy Warhol a Soho nel 1964, ma comunque era un campo che era molto prettamente maschile. Fino in Italia l'altro ieri, diciamo. Quasi anche oggi, ma esatto. In Italia soprattutto. Certo. E Mondino ha continuato il suo lavoro in modo sempre coerente ma sempre diverso. Quindi lui dipingeva, ad esempio, si lasciava affascinare in modo come dire totalizzante. Ha dei periodi in cui lui dipingeva solo dervisci danzanti, sì, perché si era incantato dai dervisci. Certo. E infatti è nella sala alla Biennale del 95, lui ebbe una sala personale alla Biennale, aveva esposto tutte queste opere di dervisci danzanti che lui chiamava turcate, perché erano, al centro della sala c'era uno, questo per dire chi è Mondino. Alla Biennale, la Biennale è la consacrazione massima, certo, la gente cerca di fare il massimo che può. Lui aveva appeso un grande lampadario bellissimo fatto di penne bic, certo, che mimavano, in qualche modo ricordavano il vetro di Murano, il prezioso e costosissimo vetro di Murano, ma quelle erano penne bic di plastica con, certo, fondo blu, come sono le penne bic. E sarà questo lampadario sarà esposto a Palazzo Boncompagni. Quindi ha avuto il periodo orientalista, diciamo, mm-hmm, poi ha avuto il periodo della sua in cui ha dipinto moltissime anche moltissimi ritratti. Se qualcuno va al bar di Palazzo Fava, che c'è, mm-hmm, sotto, ci sono alle pareti 12 ritratti di personaggi sufi. Ok. Poi però ha a un certo punto riscoperto si è sentito la sua origine ebraica e ha cominciato a dipingere invece dei rabbini, dei ebrei, tipo quelli che si vedevano, che in Italia si vedevano e si vedono ancora pochissimo, ma quelli ortodossi che invece, sì, a New York si vedevano camminare per le strade con, certo, i ricciolini che scendono il cappello, sempre col cappello, certo. E ad esempio in mostra ci sarà una scultura in bronzo che è una palma trasformata in portacappelli, a cui sono appesi tutti i cappelli degli ebrei. Poi affascinato dall'Oriente, ad esempio usava, dicevi, i materiali più diversi. L'esperienza del mosaico lui l'ha tradotta facendo in opere anche di grande formato. Ce n'è una in mostra che è 2,20 metri per 60, quindi grande, in cui i preziosi tasselli del mosaico sono in realtà cioccolatini. Cioccolatini veri e propri. Veri per cui cioccolatini che hanno anche con la carta, quindi usando i cioccolatini, i gianduiotti perché sono dorati, certo, quelli blu, i gianduiotti blu, oppure tutti i cioccolatini possibili. Ha fatto opere con le zollette di zucchero, una quantità di cose. Creando non pochi problemi a chi deve conservarle. Esatto, anche per sì, esattamente. Anche i cioccolatini, alcuni hanno la muffa. Infatti hanno dei problemi perché devono fissare l'esterno, perché esatto, sennò vermiciattoli si mangiano tutto quello che c'è dentro. E poi adesso sempre lì il titolo Impertinenza Palazzo è deriva da, io ho scelto delle opere particolarmente così non tanto provocatorie, ma perché Mondino non era provocatorio, era così, era curioso, era e ci sarà un tappeto di 2,5 metri per uno al centro della sala delle udienze papali, che è una sala, certo. Il palazzo è del 1543. Bellissimo. Ed era stato costruito da Cristoforo Boncompagni per il figlio Ugo, che poi diventò papa col nome di Gregorio XIII, ed è stato un papa importantissimo anche perché ha cambiato il modo di vivere del mondo, perché è stato colui che ha fatto il calendario gregoriano. A proposito di calendario gregoriano, casca a pennello, perché siccome sono le 20:30 abbondanti, ti devo interrompere perché il calendario gregoriano mi impone la pubblicità delle 20:30, ed esatto. Eccola qua. Forse. Nell'impero delle misure, dal 17 al 20. Ed eccoci tornati alla 433esima puntata, non mi ricordo più che numero, a 433esima puntata di Coxo Spaziale, e siamo qui con Silvia Evangelisti che ci stava raccontando di Aldo Mondino. Dunque, sì. La mostra invece questa quando inaugura? Allora, inaugura il 30 di gennaio, 30 quando c'è anche la festa in via Sant'Isaia. Perfetto, perfetto, molto bene. Sono contento che invece la mia piccola mostrina inaugurerà il 31, per cui non ci accavalliamo. Esatto. Il 30 è un lunedì, fra l'altro. Sì, ma perché era durante Arte Fiera l'inaugurazione, dopo si sovrappongono tantissime cose, quindi dopo è aperta e la gente ci va quando vuole. Esatto. Era inutile inaugurarla nei giorni d'Arte Fiera perché non c'è tempo ad andare dappertutto. Ma infatti c'è un programma, non so se tu l'hai visto, ma il programma è spaventoso e non so come farò a raccontarlo, perché no, per fortuna le mostre poi durano. Chiude Arte Fiera, ma continuano a durare. Esatto. Non si andrà alle inaugurazioni, però. Certo. Questa comunque inaugura il 30 e sarà una mostra. Ci sono circa 15 opere. Un'ultima cosa volevo dire di Gregorio XIII, certo. Perché è molto divertente. Il calendario fu introdotto, siccome cambiava, prima era lunare, era di 28 giorni, ma succedeva che a un certo punto la Pasqua era attaccata a Natale, cioè quella sì. Moriva prima di nascere, era un po' un pasticcio. E allora è stato per poterlo cambiare. Hanno dovuto giocare sui giorni. Allora, chi è andato a letto ad esempio il 6 di ottobre del 1580, mi sembra, si è svegliato la mattina dopo che era il 12 ottobre, non era il 7. Ah, ok. Quindi chi è nato lì in mezzo non è nato, non so come, perché questa è una cosa buffa. Ah no, pensavo molto di più, fra l'altro, pensavo che avessero saltato un mesetto. No, perché il 28 ce n'è uno e tu vai. Esatto. Hanno fatto tutti dei calcoli, ha chiamato astronomi, ha chiamato tutti. Una roba del genere, fra l'altro, a Mondino gli sarebbe piaciuta un sacco. Ma infatti io, questa l'idea di fare la mostra di Mondino lì, perché avevamo già fatto quella di Pistoletto. Certo. E quella di Marino Marini. Mi è venuta proprio perché Aldo si sarebbe divertito follemente. Tu l'hai conosciuto naturalmente. Sì, l'ho conosciuto. Ti dirò che c'è un piccolo episodio. Lui veniva, io ero allora direttore d'Arte Fiera, certo. E lui veniva sempre ad Arte Fiera perché aveva due o tre gallerie che avevano i suoi lavori. Sì. Poco prima, nel gennaio del 2005, lui poi è morto in aprile, quindi era già malato, lui aveva un cagnino che amava moltissimo, si chiamava Bernie, e lui era venuto col cagnino Bernie. Allora ad Arte Fiera i cani non potevano entrare. Certo. Allora mi ha telefonato dicendo: tu che sei il direttore, fai entrare Bernie. Allora io sono andata lì e mi hanno detto: no, guardi, assolutamente non si può, no. Figuriamo. Allora, e lui era depressissimo da questa cosa che Bernie non potesse entrare. E allora ho detto: vieni con me. L'ho portato dove si fanno i badge. Abbiamo fatto la fotografia Bernie con attaccato un badge con scritto espositore. No, con scritto artista. Ah, artista, grazie. Artista. Poi siamo passati, è un artista che espone qui e quindi entra. Quindi Bernie è entrato in questo grande modo e Aldo si è divertito follemente. E, perché lui era così. E ma in modo molto intelligente, le sue opere hanno i titoli delle sue opere sono fondamentali, perché lui gioca proprio come un calambur, come i giochi di parole più intelligenti. Ad esempio, c'è una scultura esposta in mostra, perché a Palazzo Boncompagni chi cura una mostra deve scegliere, c'è poco spazio per appendere perché è tutto affrescato. E quindi scultore e pittore, e c'è ad esempio un'opera che si chiama La madre di Boccioni. Umberto Boccioni è un artista futurista che è morto nel 1916 ed è una scultura che assomiglia a un ritratto della madre di Boccioni, che si chiama Antigrazioso, tutto un po' scomposto, con mezzo busto, al posto del seno ha due grandi bocce due normali bocce da bowling, e quindi la madre di Boccioni dà questa cosa dei boccioni. E ce n'è un'altra che sono quattro elefanti uno sopra l'altro, sempre un po' più piccoli, che formano un corno, ed è di cioccolato. Ah, ok. Tutto di cioccolato. E il titolo è Scultura un corno. Ah, fantastico. Poi c'è. Pensavo che una scultura come quella della madre di Boccioni forse oggi non sarebbe neanche accettata, no? Con il politically correct. Sì, ecco, perché assolutamente poco. Sì, Me Too farebbe delle scene da malavita. Esatto. Poi non so, al centro della sala dell'udienza del Papa c'è questo tappeto che raccontavo prima, che è fatto di chicchi di caffè di tre colori diversi. C'è il caffè grezzo, che è un verdino, il caffè semi tostato, che è beige, e il caffè tostato, che è marron. Sì. E con questo c'è un tappeto che è un tipico tappeto islamico rivolto verso la Mecca. Quindi c'è questo gioco del salone che è arredato, diciamo, come un salone, però in modo assolutamente impertinente. E dentro al meraviglioso camino che c'è, perché il Palazzo Boncompagni merita, certo, anche se non c'è anche nulla se non dentro, ci fosse la mostra meriterebbe una visita, ecco, c'è un grande camino che poi è affrescato sopra dal Tibaldi, dove all'interno sono appese due gambe di donna aperte e di vetro, il titolo è Trofeo. Okay. Voglio dire, tutto è un gioco. Ma poi ci sono dipinti, i tappeti meravigliosi. Lui si era incantato in Oriente, in Turchia in particolare, dai tappeti appesi ai muri, e quindi li ha rifatti però su un materiale eraclite, che è un materiale da costruzione, un materiale povero. Ha fatto un sacco di opere, tanti ritratti sono fatti sul linoleum. Poi c'è un ritratto che è un po' una presa in giro di Maurizio Cattelan, perché è un piccolo ovale dove c'è il ritratto di Cattelan e il titolo, questo dipinto, il titolo è Il professore di Trento, perché Cattelan aveva avuto la laurea honoris causa a Trento in sociologia, in sociologia a Trento, quindi sì, poi adesso va di moda Cattelan, gli hanno anche imbrattato la scultura. Infatti no, quello è stata un'idea di Fabio Cavallucci, che anche lui ha queste buttate un po' mondiniane, ecco, mondiniane infatti. Fabio amava molto Mondino, e quindi è una mostra che è anche molto poetica, perché Mondino in questo era come un, io cito nel testo il titolo di un libro di uno scrittore, di un filosofo, è l'Emile Zola, che si chiama Lo stupore infantile. Ecco, nelle opere di Mondino è salvato in qualche modo quella capacità di meravigliarsi, di fare oh, certo, che hanno i bambini fanno oh. C'era anche una canzone. Ah sì, una canzone orribile. Orrenda, cretinissima. Ti interrompo di nuovo. l'angolo della menzione. Perché ho visto che le tue chiacchiere ci mettono un attimo a finirmi la trasmissione, mentre invece appunto devo raccontare cosa succede questa settimana, ovvero vado velocissimo. Giovedì 19 gennaio alle 17 all'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, naturalmente, e c'è la presentazione di City of God, il catalogo della mostra omonima di Alessandro Pessoli, che fra l'altro tu hai avuto come studente. Esatto. E io come compagno di Accademia, inaugurata a Palazzo Vizzani nella sede dell'Associazione Bolognese Alchemilla nel 2021. L'evento espositivo dedicato all'artista, diplomato l'abbiamo appena detto, è stato curato da Fulvio Quimento con l'organizzazione congiunta di Alchemilla, Green Grassi e Vero. Alla presentazione interverranno Fulvio Quimento, Antonio Grulli, Camilla Sanguinetti, presidente di Alchemilla, che dialogheranno con Pessoli in collegamento da Los Angeles, perché naturalmente lui sta a Los Angeles. E questo è giovedì alle 17 all'Accademia di Belle Arti di Bologna in via Belle Arti 54. Lo stesso giorno invece alle 17.30, per cui dovrete scegliere o l'uno o l'altro o entrambi se avete il dono dell'ubiquità, abbiamo il Mambo che presenta il libro di Emilio Fantin, Poetiche del non percepibile e proiezione del video Shamani and the Light of Darkness. Una conversazione moderata da Lorenzo Balbi tra l'artista Emilio Fantin, Gabi Scardi, Catherine Desjardins, curatrice del volume, Fabiola Naldi, Susanna Ravelli e Carla Subrizzi. E questo è al Mambo giovedì alle 17.30, anche se qualcosa mi dice che la povera Carla, a cui noi diamo un abbraccio virtuale, dubito che ci sarà, visto che il suo compagno poverino ci ha abbandonato in questi giorni. Adesso, se abbiamo tempo, magari parliamo anche del mitico Gianfranco Barocchello. Sempre giovedì alle 19 invece abbiamo Storia di Cronopius alla Casa della Cultura della Cultura Italo Calvino di Cardano di Reno. Si festeggiano i 20 anni di Cronopius, per cui andate in via Roma 29 a Calderara di Reno dopo tutti questi avvenimenti. Venerdì invece abbiamo Parsec alle 18.30, abbiamo Parsec che inaugura Untangle the Jungle, una mostra di Christine Bax e Camilla Carroll, vincitrici del programma Parsec Residency. Questo è in via del Porto 48C a Bologna. Poi sabato inaugurano CAR, che è lieta di annunciare Another Race of Vibration, la prima personale in galleria dell'artista serbo, oddio non so pronunciarlo, Nebojša Despotović, che presenta per l'occasione una selezione di opere appartenenti al gruppo La Famosa Serie di Fioi, prodotto nel 2022. Questa è CAR in via Azzo Gardino 14A a Bologna. E poi abbiamo sempre sabato alle 17, ah no, ci abbiamo altre cose, alle 17.30 invece sempre alla Casa della Cultura Italo Calvino abbiamo Delle Città Come Dei Sogni, mostra di Daniele Catalli e conferenza leggera di Alessandro Castellari a cura di Adiacenze, e questa è in via Roma 29 sempre a Calderara di Reno come giovedì sera. Sabato sempre 21 gennaio inaugura anche lo studio G7, che presenta a Pop Tosi, nona mostra personale degli artisti Anne e Patrick Poirier, accompagnata dal contributo critico di Leonardo Regano. Una serie di lavori storici di nuova produzione compongono un progetto inedito capace di riscoprire alcuni dei materiali ricorrenti del loro fare arte: foglia d'oro, resina, fotografia stereoscopica, elementi naturali e gesso. E questa è la Galleria Studio di G7 in via Valdapose 4, sabato dalle 18 in poi. Ok, abbiamo detto tutto, sono stato veloce. Velocissimo. Ok, e invece naturalmente le tue due mostre inaugurano la settimana successiva. La per settimana, cui... una è il 20, quella di Greta Schur in via Labs, in via Santo Stefano 38, inaugura il 28. Mentre invece Aldo Mondino, Palazzo Boncompagni in via del Monte 8, inaugura il 30 di gennaio. E quella di Aldo Mondino sarà una mostra veramente interessante, intelligente e divertente, non perché l'ho fatta io, ma perché Mondino è così, certo. Perché è un artista straordinario ed è stato ci sarà esposta anche una famosa sua fotografia in cui lui in giacca e cravatta, è sempre giacca e cravatta anche quando lavora, si trova in via Brera a cavallo di un cammello. Ah, ecco, infatti quella foto lì mi ha sempre affascinato. Sarà esposta anche quella foto. Lui andava dai suoi amici al Giamaica, dove c'era Piero Manzoni, dove c'era insomma tutti gli artisti milanesi di quella cosa. E devo dire, io sono stata felice di fare questa mostra di Aldo, perché mi sono divertita. Come se la fosse andata a visitare, ed è un, non è stato, cioè, ci sarà il figlio Antonio, che è l'unico figlio che lui ha, che è uno scombinato come lui, ma anche lui è divertente, anche lui intelligente, insomma è una mostra molto particolare che io veramente consiglio. Fantastico. Io fra l'altro mi ricordo che ti volevo invitare quando avevi curato la mostra di Luciano De Vita, sì, in Pinacoteca. Ah, dopo poi c'è stata la pandemia, c'è stato il lockdown. Cile, che era bella la mostra, perché Luciano De Vita è un altro artista che non ha avuto la fortuna critica che si meritava, che si meriterà, sperando che la possa avere in un futuro infatti, perché non si sa mai. Ecco, appunto. Assolutamente. Infatti io approfittavo appunto, adesso non stiamo a raccontare tanto di te, curatrice importantissima, appunto sei stata direttrice, anzi per quel che mi riguarda hai fatto svoltare Arte Fiera in maniera veramente decisa. Dal 2002 al 2012. Al 2012, un bel decennio di un'Arte Fiera che ricordo, sì, molto importante e molto fatta molto bene, insomma. Dopo di te dubito che qualcuno sia riuscito ad eguagliarti, comunque, senza voler esagerare, però adesso non me ne vorrà Simone, ma no, secondo Simone me Simone è molto bravo, però sai, difficile tirare su, cioè, sì, certo. Ci metti del tempo, chiaro. Però secondo me Simone sta riuscendo a rimettere in carreggiata Arte Fiera. Certo, sì. Il posto che aveva Arte Fiera tra le fiere nel mondo è stato preso da tanti, sai, è stato preso d'assalto, ecco, da migliaia di altre infatti, fiere. Quando tu lasci libero uno piccolo spazio, ci si infiltrano in 100.000. Infatti. Però Simone sta facendo un ottimo lavoro. Certo. Ti volevo chiedere, in tutta la tua lunghissima carriera a contatto con gli artisti, qual è stata l'esperienza che ricordi con più felicità nel lavorare con degli artisti? Ma intanto è stato, devo dire, il rapporto con gli artisti. Una cosa particolare, ne ho avute moltissime, potrei star qua, io sono chiacchierona, sì, no, potrei star qua per due giorni, però una cosa, un episodio buffo è stato quando io ero già direttore non ero ancora direttore Arte Fiera, ma ero consulente di Arte Fiera e portavo in giro i collezionisti, e ero i primi anni 2000, 2001, 2002, e io amavo moltissimo il lavoro di un artista che allora, adesso è conosciutissimo ed è anche molto apprezzato da un punto di vista economico, che era Enrico Castellani, che a me piaceva moltissimo, e io a chi mi chiedeva cosa mi consigli dicevo sempre: guarda, quando hanno finito i Fontana quello che arriva sarà Castellani, e portavo a vedere Castellani e ho fatto comprare un sacco di Castellani, finché Castellani ha chiesto al gallerista, ha detto: ma come mai quest'anno io ho venduto tutta questa roba? Cos'è successo? Come è stato? Allora lui gli ha detto: ma guarda, c'era la consulente di Arte Fiera, che è una storica dell'arte, che ama moltissimo il tuo lavoro e portava tutti i collezionisti qui, e quindi gli faceva comprare le opere. E lui ha detto: ma io non l'ho mai sentita, non la conosco, cioè, senti, siccome devo fare una mostra adesso, tra poco, ma la farei curare da questa, perché evidentemente sa raccontare bene il mio lavoro, se tutti l'hanno comprato. E io nel 2003 curai una importante mostra a Bergamo di Enrico Castellani. Beh, fantastica sta cosa. In effetti, voglio dire, la tua lui ignaro, però la tua attività di curatrice è sempre continuata poi. Sì. Anzi, forse sei partita prima come curatrice che non come, sicuramente, non come consulente. Sì, infatti lo facevo perché siamo sempre, anche i curatori come gli artisti, bisogna campare, si deve, e quindi si è sempre in cerca di qualche cosa. cosa per poter guadagnare qualche lira. Quello io facevo i comunicati stampa, certo, portavo in giro i collezionisti, insomma, ma mi sono anche molto divertita, devo dire. E comunque sei riuscita a collimare l'elemento economico a quello culturale, sì, in maniera intelligente. Ma sai, avevo la fortuna che non avevo, che io non ho nessun senso del denaro e non avevo nessun aggancio economico. E questo mi ha reso libera, nel senso che non avendo io nessun tipo di rapporto con... ero amica di galleristi, ero amica di artisti, ma non avevo nessun tipo di rapporto economico con nessuno. Quindi mi sono sentita di poter consigliare, di scegliere le gallerie. Una delle cose che io a cui tengo moltissimo e che mi ha dato grandi soddisfazioni è quando io ho fatto la sezione delle giovani gallerie ad Arte Fiera, mettendole al centro della fiera, perché c'era sempre stata una sezione giovani, ma era nascosta, di fianco ai bagni, prima del, prima dell'uscita. Invece io l'avevo messa al centro, e le giovani andavo a cercare le giovani gallerie in giro per il mondo, che io e te, infatti, ci siamo incrociati a Miami, esattamente, infatti a Miami, perché andavo a prendere, sì. E queste gallerie, e pagavano la metà degli altri, certo, e molte di queste, tra queste c'è stata anche la Galleria Continua per un certo periodo, sì, quindi per dire, ma poi la Veronica, poi all'Eruzzo di, cioè, ma tante gallerie che poi sono diventate gallerie molto conosciute, stimate, e che devo dire sono quelle che mi ricordo tutte le volte, dico, era stata l'unica che ci ha guardato, che è venuta e ci ha invitato. E questa è stata una cosa, secondo me, molto interessante, perché insieme alle giovani gallerie venivano i giovani artisti, insieme ai giovani artisti venivano anche i giovani studenti, e si vedeva l'arte che si stava facendo. Certo, certo. Che forse era meno vendibile di quella del passato, perché Casorati piuttosto che Carlo Carrara, più facile venderli, anche se più cari. Ma invece cominciavano a venire fuori questi giovani, e io ho cercato di, insomma, di dargli una mano dove ho potuto, e devo dire che questo mi ha dato grande soddisfazione, perché hanno fatto grande carriera le gallerie che hanno cominciato ad Arte Fiera. Fantastico. Silvia, io non so come ringraziarti. No, io ringrazio voi che mi avete dato un microfono. No, figurati, anzi, è stato un vero piacere, e devi promettermi di tornare, perché voglio sentire ancora altre storie, perché secondo me ne hai da raccontare. Sì, ne ho assolutamente. Molte. Ti racconterò quella del Keith Haring un'altra volta. Ah, fantastico, molto bene. Allora, non vedo l'ora di rivederti qui con noi a Radio Città Fujiko. Con grande piacere. Silvia Evangelisti, io ti ringrazio tantissimo e ti saluto con le parole un po' ironiche del nostro bene amato direttore di radio, che ci saluta così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Tra l'altro questa sigla secondo me ti piacerà moltissimo. Lugano. Si chiama Samba Lugano. È bellissima. Io ero Stefano W. Pasquini, tu eri Silvia Evangelisti, e questo era Coxo Spaziale. Ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao. Ciao. Lugano coi sassolini. E tutti i sassolini hanno un nome, i sassolini di Lugano, i prati, il lago con le montagne intorno, i palazzi coi vetri, i vetri lucidi, lucidati, gli specchi, gli uccellini che passano e si specchiano, i cigni che vanno nel lago di Lugano, i cigni coi piedoni, che beccano sulla testa le anatrelle di Lugano. Quanto bene le anatrelle di Lugano, tutti sanno di Lugano. Samba Lugano, e Samba Lugano, e Samba Lugano, Samba, Samba, Samba Lugano, Samba Lugano, e Samba Lugano, Samba Lugano, Samba, Samba Lugano. Ma c'è un'altra Lugano, una Lugano nascosta, una Lugano di culetti, una Lugano di coriandoli, sottoterra. Si spostano, fanno le feste, se le tirano, tirano i coriandoli, le caramelle, fanno i carnevali sempre, ballano, da notte a notte. E la notizia si è sparsa al mondo, l'hanno saputo anche loro, il sindaco di Rio de Janeiro. ha mandato una lettera al sindaco di Lugano. Caro sindaco di Lugano, avendo saputo della vostra immensa capacità di fare festa, vi vogliamo invitare al nostro carnevale. Vi prego di arrivare, vi prego di arrivare. Samba Lugano, e Samba Lugano, Samba, Samba, e Samba Lugano, Samba Lugano, e Samba Lugano, e Samba Lugano, Samba, Samba Lugano, Samba Lugano, e Samba Lugano, e Samba Lugano, Samba, Samba, e Samba Lugano, Samba Lugano, e Samba Lugano, e Samba Lugano, Samba, Samba Lugano. Gli abitanti di Lugano hanno detto si parte e via, tutti insieme, con le forbicine. Hanno ritagliato la città e poi via, a spingere, giù lungo il Ticino per arrivare fino al Po. E poi scendere, scendere la città di Lugano fino al mare Adriatico e via. Nuota, nuota, spingi, spingi, e nuota, nuota, attraverso il mar Mediterraneo, dai, lo stretto di Gibilterra, dai, passiamo, un, dai, tre, upla, dai, via, oceano Atlantico, forza Lugano, spingi, spingi, tutti che nuotano, ecco il Brasile, e sono arrivati, oh. Si schiantano sulle coste, tutti li aspettano a Rio de Janeiro, hanno preparato le caramelle, hanno preparato tutti, dai che facciamo la festa. Samba Lugano!